no, già ti spiegherò perché gli danno fastidio a persone. Dai, comunque ce l'ho. Sono soft tunic. Lo scarica. Lo sto scaricando. Almeno posso ritoccare anche le foto. Ritoccare. Siamo indispensabili. Riformattarle, dagli una misura che serve a te. Quelle foto lo sai che sono tutte in verticale, no, che non gli dire la macchina fotografica. Cioè, tutte in una zona in ogni volta ti metti il male di base, no? Se devi girare tu o tagliarle. La roba è inutile, non ti sfondi, cacchi vari, e roba che non ti serve devi tagliarla. Quello dei CITU? Tre pezzi, tre programmi sono usciti, strumenti, new immagine, manipolazione, program, e da voi issue, livelli, canali, traccianti, annulla. Ah, e lì c'è più mano più. Ah, sono tre pezzi, io. Il programma è... Comunque, rimane uno, carica la foto che devi modificare. Ma uno qualsiasi ne prendo, quello immagine manipolation program. D'accordo. Sulla Gemina 2002 è ti ne è sicuro un programma. Non ho capito, è successo? Sono andato a chiudere uno di quei due e il programma se ne è tolto dal coso. Così uso questo qui, ecco qua. Se vai a chiuderli questi programmi qua, questi due che ci sono ai lati, stai mettendo il programma. Sì, beh, logicamente, è come Photoshop, fa la parte del software, li sposti o li picciolisci. Per forzare l'immagine della cosa di Rosello lo devo fare. Ma guarda, io sono usando quello, ma comunque vai su file, vai su file, carica, importa, quello che ti fa le piace, apri. Piacciato apri a vedere. Tanto ti fa vedere tutte le diritti, devi solo scegliere la foto che ti interessa. Guarda che è un programmone contro fracassi, paragonabile a Photoshop, cioè Photoshop costa 1078 euro, quello è gratis. Eccola qui la Fontana del Rosello, bella. Un po' difficile visto, proprio. Okay. che ho fare. Perché non l'hai fatto orizzontale e lasciarli da posto almeno? Perché una così. E adesso devo cercarmi qualche bella fotografia e basta. Guardala ragazzi, è buono che metto di là. C'è per forza, se no come rimane appesa. Senza bollone non va bene. Due prove devo fare, perché una è dove sei tu e una è nell'altro posto, capito lui? Ah, vabbè, ma sempre quel giorno lì, 31, quando è? 31 agosto è, una alle 11 e mezza e una a mezzogiorno e mezzo. Più difficile alla fine che non trovi nessuno. E mai sono più difficile che lo sono occhi. Ma un bruciometra. E mi rubo altro io, problemi non ha giù. Già andare, vi accorti che io sono subito. Ebbene, Windows e il drive, ovviamente mi metto la password. nel vano più basso. No, disponibile, adesso l'ha fatto. L'ha fatto adesso, maledetto. Oh, ti stavo dicendo, due messaggi di porco mi sono arrivati, è detto, ma... ricordati di mula portante, perché è stato te la dimentichi. Lo so. Comunque, se ha avuto accesso come disponibile, tu nell'opzione l'hai messo disponibile, metti visibile quello che c'è, quello che ti preferisci tu. Adesso c'è disponibile, per non stare lì a rompermi le scatole, capito? Era. Perché va dove vuole lui. Però. E io ti cosa hai detto così? Memorizza la faccia. fare nulla a profilo utente. Praticamente ogni volta stai cancellando le impostazioni, là. Dimmi esattamente cosa avevi scritto. Adesso c'è il mio nominativo, però c'è scritto il mese l'ha fatto, se metto l'ha fatto dico di memorizzarlo solo a lui, alla parte, perché il nome non me lo cancella. Boh, vediamo un po' se funziona così. Ok, la faccia c'è subito subito. Per memorizzare la faccia devo memorizzare profilo utente. Prova la faccia a vedere. Vabbè, accedi. Aspetta, non mi fa accedere. Aspetta 52 secondi, là, che io ti fa accedere. Allora, se lo blocco io. Vabbè. Un attimo. Dai, ti fa accedere. Scusa, chi mi ha bloccato lì? Io, non lo permetterei mai. No, no, guarda, ma è impossibile accedere, ecco. Ah, io tu gli tiro le balle. Dai, esci da MSN, rientra. Io non sono così bastardo. Si è bloccato per 50 secondi, che cacchio, se li è beccati per caso proprio. Occupato però c'è. Mannaggia. Adesso sono disponibile. Quando entro dentro mi metto disponibile quando voglio mettermi lì. Prima che dica, cosa per strano? No, non da fastidio però. Perché la persona che ho io lo imposto come voglio io dall'inizio, come voglio essere in partenza. Adesso gli ho detto non al computer, voglio dire come c'è. Adesso mi ha detto no, spostate su non al computer, vuoi passare alla versione in linea? No, un cavo, dovevo mettere da là. Ecco, adesso esco del tutto. Adesso provo a rimettergli la situazione a vedere se fa come gli dico io. Sì, però a parte gli scherzi, guarda, se non hai tempo al server di aggiornarsi, poco fa, vabbè, ho chiesto bloccato io così per il gioco. Però se non hai tempo al server di aggiornarsi, guarda che ci sono queste impostazioni che non sono memorizzate lì, sono memorizzate nel server. Poi, acceso come non al computer, e mo sei sparito. No, già va bene, hai solo anche il tempo di aggiornare. Fatta bene che c'è un attacco in corso di quei pezzi di merda di hacker russi e georgiani che si stanno cavando gli occhi fra loro, sono in casino di mezzo internet. E beh, stanno siano fatti loro, perché mi si è bloccato il russo e ho dovuto formattare la bagazza loro. No, no, loro sono, hanno bloccato cose tipo Twitter, hanno rallentato quasi completamente Facebook, a Google gli hanno fatto quasi una beffa perché hanno dei server enormi, però casino è arrivato, no, non si dedicano a persone singole. Ecco, adesso ha fatto disponibile. Metti che ti faccio indisponibile io sull'istante. Non ce l'ho più quel programma perché ho formattato tutto e quello non l'ho salvato. È meglio che non ce l'hai, cosa ne fai? Ma sì, non me faccio. Se no devo fare qualche ricetta tecnica, infatti. E non in 3D. Sì, poi se devo trovare, non me la fottire MSN a me. Stiamo si guardando poco. Io, no. Se nessuno mi rompe lo spalle, io sono a puccia. Come? Oh, nessuno mi rompe le palle, io sto a cuccia, e poi c'è il cane, sta tranquillo se non mi tiro la coda. Infatti. Cosa volete dire? Adesso sono invisibile, secondo me. Beh, guardo, no, non vi sento più qua niente. Poi, no, solo Java, YouTube, che c'è un aggiornamento. Tutto il resto non serve a niente. È un buon antivirus. Che c'ho l'altro, non lo uso più quello per Messenger, uso l'altro. Ma ve lo puoi anche usare, non capisce nessuno, a me sembra non è che dà fastidio. Ma stai, mentre stai cazzeggiando con una cosa magari quindi che ti lasci MSN sotto sotto, che se c'è qualcuno che ti vuole chiama MSN serve teoricamente, in teoria io ce l'ho sempre spento. Beh, anche se c'è un film d'errore, ma io ce l'ho acceso, non mi cerca di più. Ma se c'è mia cognata, la moglie di Mario, e c'è, io la vedo se c'è, e non mi ha cercato, se non la cerco io non mi cerco. E vuol dire non tutti nulla, se non ti vedi nulla a dire che fa. Io non me le parlo, non me le ero per nessuno, lo posso lasciare sotto sotto, senza, no? Ma se l'avessi l'altro computer, l'avrei lasciato acceso MSN, quello delle radio, ma ha capito da più di lì. Nel senso che MSN me l'avrei lasciato sempre acceso lì, e poi con l'altro avrei potuto fare il cazzo che volevo. Sì, è brutto. Un attimino. Natalino, ma Carluccio anda, a te sei Natalaus, ma tu l'hai venduto, sono 43 spettacoli.